Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non ti voglio più vedere sul muro, davanti ad un bucato, dove qualcuno ci ha disegnato pornografia a buon mercato. Oh no, non ti voglio vedere, intanto che cucini gli spaghetti, con pomodoro, peso per i tatretti. Mentre un imbecille entrando dalla porta grida un'evviva con la bocca aperta, col dentifricio pure trasparente. Bella in casa, senza Cerone. Non voglio dire che sei una rosa, sarei un trombone, ma ti vorrei vedere qualche volta in bikini, senza sfondi di isole lontane e restare un po' vicini. Io ti vorrei vedere mentre cogli l'insalata dell'orto, che vorrei avere coltivato prima d'essere morto. Oh no, anche se guadagni 100.000 lire al giorno, non ti puoi scordare che la vita è.